vuelvo el marelo, chica. Y tira fuerte el viento. Una vecchia terraza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo braccia una ragazza dopo chi aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sa, è una catena ormai che scioglie sangue e denti, bene sa. Vide la luce in mezzo al mare, pensò la notte là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di una elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò dolce anche la morte. Ma negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, all'improvviso c'è una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena. Scioglie il sangue, vinti bene sa. Potenza della lirica dove ogni un dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma di occhi che ti guardano così vicini veri, fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccola, anche la notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come una scia di una elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie sangue di...